Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato l'aereo che recava a bordo l'ingegner Mattei, il pilota e un giornalista americano. La località dove si è schiantato l'aereo a poche centinaia di metri dall'abitato di Vascatè, proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate. Si cammina con il fango alle caviglie. Tutta la zona è tipicamente intersecata da canali. Pioggia battente. L'unico viottolo per giungere al campo dove sono i resti del velivolo è pieno di vetture incolonnate. Gli automezzi affondano nel pantano, la notte è buia e fredda. Le prime squadre scoprono la parte più grande rimasta dell'aereo. È la coda. Arde ancora. Tutto il resto è disperso nel raggio di parecchie centinaia di metri. E comincia una ricerca affannosa, tra l'erba alta dei prati circostanti, nelle rocce e nei canali. Tutti i giovani di Vascatè si uniscono ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco e prendono parte alle ricerche. Ogni tanto un grido, un richiamo. È stato trovato un pezzo dell'aereo. Sembra impossibile che i corpi non si possano trovare. Sabato 27 ottobre 1962. Sono le 18.57 minuti e 10 secondi. C'è un forte temporale sopra il cielo di Vascatè, un piccolo paese alle porte di Pavia. Piove forte che quasi non si vedono le case, le colline dell'Otepò, i vigneti. Il piccolo aereo Moran Saulnier 760 ISMAP dell'ENI sta volando in questo momento verso Linate. Tutto accade all'improvviso, prima un lampo, come fosse una deflagrazione, poi lo schianto. Precipita il velivolo, muoiono sul colpo i tre occupanti, il pilota Irnerio Bertuzzi, il giornalista e fotografo inglese William McHale, il presidente dell'ENI Enrico Mattei. Erano partiti sereni da Catania alle 16.57. A Milano non li hanno mai fatti arrivare. Enrico Mattei nasce ad Acqualagna il 29 aprile 1906, figlio di un brigadiere dei carabinieri. Prima manovale, poi verniciatore, capo operaio, aiutante del direttore tecnico. A 20 anni dirige una piccola fabbrica. Va a Milano a cercare fortuna. Acquista uno stabilimento più grande e investe i guadagni in speculazioni fondiarie e immobiliari. Diventa partigiano dopo l'8 settembre 1943. È comandante e ufficiale di collegamento. Trova finanziamenti, tiene collegamenti con gli alleati, cerca nascondigli per le riunioni clandestine. Arrestato nel 1944, riesce a fuggire in Svizzera. Il 25 aprile 1945 sfila a Milano con i leader della resistenza. Nella DC Mattei è un uomo influente, lui che è un industriale affermato. È commissario straordinario dell'AGIP nell'immediato dopoguerra, poi membro del consiglio di amministrazione dell'AGIP fino alla vicepresidenza. Conserverà la posizione fino alla costituzione dell'ENI nel 1953. Ora è al vertice dell'industria petrolifera di Stato, vive tra Milano e Roma, sfida i petrolieri americani, il governo degli Stati Uniti, i monopoli italiani. Cerca una strada diversa per l'ENI. Ma allora, il 27 ottobre 1962 fu incidente o attentato? Primo mistero. Un testimone assiste alla scena. È Mario Ronchi, un agricoltore di Vascatè. Il giornalista della RAI, Bruno Ambrose, giunge sul posto e lo intervista. Alla cascina Albaredo, sita a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei? Ma ho visto del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme. Che ora era circa? Sette, dieci, sette in quattro. Ecco, avete sentito, c'è un buco nella registrazione. In realtà, in quel momento, Mario Ronchi sta andando avanti a parlare, come ci conferma oggi Bruno Ambrosi. Il signor Mario Ronchi, il contadino che incontrai quella sera di pioggia, nella sua cascina, naturalmente, aveva detto parecchio di più di quello che voi ascoltatori avete appena sentito. E lì c'è proprio, direi, uno dei misteri ancora irrisolti del caso Mattei, della caduta di Mattei, dell'aereo di Mattei a Vascatè, perché il contadino, a mia memoria e anche attraverso altre testimonianze, quella sera disse che aveva sentito qualcosa in cielo, una sorta di esplosione, dopodiché l'aereo era caduto, i frammenti dell'aereo erano caduti nel territorio appunto dei suoi campi e lui era corso appunto tra i primi. Se non che quando l'inchiesta giudiziaria riaperta dopo anni a Pavia cercò di appurare i fatti, del racconto successivo del contadino Ronchi non ci fu più traccia. A quell'epoca la televisione funzionava ancora con il cinema praticamente, cioè con delle riprese a 16 mm che avevano da una parte nella macchina da presa il video, diciamo, e dall'altra parte la parte sonora attraverso un magnetofono, poi le due parti venivano combinate nella famosa moviola. Quel servizio andò in onda da Milano quella sera stessa, in collegamento con Roma, e perché tale rimase per un certo periodo. In occasione dell'inchiesta giudiziaria di Pavia, la cosa strana che risultò al giudice, il quale appunto mi chiese testimonianza, fu proprio che quella parte di sonoro in cui si accennava all'esplosione in cielo, di fatto, era scomparsa. E questa cosa è molto strana, in quanto ovviamente un archivio è ben controllato, se non che di fronte al fatto che mancasse questa parte, che poi abbiamo potuto accertare anche tecnicamente, che proprio mentre era rimasto il video della persona che parlava, cioè di Ronchi, la parte sonora era scomparsa e sostituita da una striscia, diciamo, di materiale inerte, io stesso suggerì al giudice di sequestrare o comunque di poter verificare l'edizione interamente registrata dal telegiornale di quella sera, che per ragioni di legge ogni telegiornale è registrato a fini appunto a futura memoria. E il giudice mi ammise che aveva tentato il reperimento di questo materiale, ma che stranamente nell'archivio centrale della RAI a Roma era scomparsa anche la registrazione di quella sera. Non è un'indagine facile. Il sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia, giunge vicino alla soluzione del caso. Formula l'ipotesi dell'attentato che però non può provare. Scrive il magistrato: l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato in modo spontaneo la presidenza dell'ENI. Chi compie il sabotaggio dell'aereo? Con quale ordine? Il pubblico ministero Calia non riesce ad accertarlo, anche se lo intuisce. Responsabilità di uomini inseriti nell'ENI, negli organi di sicurezza dello Stato, e ancora depistaggi, manipolazioni, soppressioni di prove e di documenti, pressioni che impediscono l'accertamento della verità. Attenzione, il magistrato parte da quei 100 grammi di esplosivo di tipo militare, Compound B, vengono sistemati dietro il cruscotto dell'aereo. La carica viene innescata dal comando che abbassa il carrello e apre i portelloni di chiusura. Il magistrato giunge a queste conclusioni dopo le perizie del medico legale Carlo Torre, dell'ingegnere Donato Firao, del capitano dei carabinieri Giovanni De Logu, dell'esperto della Marina Militare Italiana Giovanni Brandimar. Il magistrato mette poi a confronto tutte le tesi, ma non arriva mai ad una conclusione, non può farlo, non ha le prove. C'è il pentito Tommaso Buscetta che rivela: la mafia americana chiese a Cosa Nostra il favore di eliminare Enrico Mattei nell'interesse sostanziale delle maggiori compagnie petrolifere americane. Poi c'è la pista italiana. Mattei, finanziatore della politica, nemico di certi circoli, anche dell'estrema destra, svolge un ruolo parallelo di ministro degli esteri, grazie ai suoi rapporti con l'Algeria, Unione Sovietica, i paesi del Mediterraneo. Mattei riceve delle minacce. Alla moglie, alla vigilia del viaggio in Sicilia, il 26 e 27 ottobre del 62, confida: cara, può anche darsi che io non torni più. Poi ci sono i sospetti, la scorta personale, la scelta di decidere sempre all'ultimo momento i suoi spostamenti, gli itinerari, gli orari, Anche nell'ultimo viaggio verso la morte, Enrico Mattei tenta di depistare i nemici. Si porta in Sicilia due Moran Solina della flotta aerea dell'ENI e lasciando fino a fine aperta la destinazione del suo viaggio di ritorno, Roma o Milano. Nel 1998 il SISDE consegna al PM Calia un appunto del 79, forse quello più inquietante. Scrive: il vicequestore Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, ucciso poi dalla mafia, si occupava in realtà a titolo personale della scomparsa del giornalista Mauro De Mauro, eliminato per aver trovato il bandolo della matassa sull'incidente aereo che costò la vita all'onorevole Enrico Mattei. Tutto chiaro? Una strada nuova per il nostro paese, Enrico Mattei la illustra in questa intervista per la televisione. È praticamente una sorta di manifesto della sua filosofia economica, che vale forse più delle parole e di tutte le piste investigative. Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza, poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane, perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.